Gobbolino e il cavallino di legno. Le prime ombre della sera calavano sulla pianura quando Gobbolino e il cavallino di legno, inseguiti da una muta di cani ringhiosi, trovarono rifugio nel cimitero deserto davanti alla chiesa. La porta della chiesa si aprì, un prete apparve sulla soglia e i due amici si infilarono dentro di corsa. Un momento dopo si udì uno scampanio da far paura e uno stormo di pipistrelli spaventati volò fuori dal campanile, mettendo in fuga i cani che con la coda fra le zampe se ne andarono ululando. «Caro gattino», disse il vecchio prete chinandosi a carezzare Gobbolino, «questa volta la chiesa stregata ti ha salvato la vita». «Stregata, stregata!» chiesero Gobbolino e il cavallino mentre riprendevano fiato. «Sì, voi stessi avete potuto udire il terribile frastuono delle campane che suonano da sole. Nessuno degli abitanti del villaggio osa più venire in chiesa». Troppo scossi per raccontare subito la loro storia, i due amici chiesero se potevano rimanere lì per la notte. «Certamente, vi avrei invitato a venire a casa mia, ma la vista dei gatti ti rende molto nervosa la mia perpetua. Comunque vi porterò qualcosa da mangiare». Il prete se ne andò e tornò poco dopo con una ciotola di latte e del pane. «Spero che riposerete bene». Finito di mangiare, Gobbolino e il cavallino di legno decisero di passare la notte nel campanile perché temevano che i cani, sfidando i fantasmi, potessero entrare nella chiesa. Stancamente si arrampicarono per la scala a chiocciola e giunti in cima videro centinaia di pipistrelli attaccati alle corde delle campane con le ali ripiegate. Improvvisamente uno dei pipistrelli esclamò: «È tempo di alzarsi, fratelli! Ora! Ora!» Provocando un fragore terribile, i pipistrelli lasciarono le corde del campanile e si infilarono dentro la chiesa. Volarono tutto intorno, su e giù nell'organo, fuori e dentro il pulpito, mentre il suono delle campane si diffondeva in ogni angolo. Gobbolino e il cavallino di legno si appiattirono contro il muro, sopraffatti dallo spaventoso rumore e dal turbinio di ali nere. Infine i pipistrelli sparirono e i due amici, provati da tutte quelle avventure, si addormentarono profondamente. Quando si svegliarono, si accorsero che i pipistrelli erano tornati in silenzio al loro posto. Gobbolino sbadigliò, si stiracchiò e poi li interpellò. «Signori», disse, «ma lo sapete quanti guai causate facendo suonare le campane a quel modo? Gli abitanti del villaggio credono che la chiesa sia stregata. Non preferireste trovare un'altra casa?» «Certo che lo vorremmo! Qui c'è troppo rumore! Siamo in troppi!» «Sulla montagna tempestosa, dove un tempo abitavo, ci sono centinaia di grotte vuote. C'è posto per migliaia di pipistrelli». Chiesero. «Certo che ne sono sicuro, lo giuro. Ma dovrete entrare nelle grotte piano piano, perché c'è una strega che vive nella più isolata delle caverne e se la fate arrabbiare potrebbe trasformarvi in qualcosa di orrendo». A due i pipistrelli lasciarono le corde delle campane e svanirono nell'incerta luce dell'alba, diretti alla montagna tempestosa. Sul finire della mattinata il prete, tutto felice, salutò Gobbolino e il cavallino di legno. «Non ci posso ancora credere», disse, «ma chi avrebbe detto che la stregoneria che terrorizzava il villaggio era colpa dei pipistrelli? Vi sarò sempre grato, miei cari piccoli amici». E i due compagni si misero di nuovo in cammino verso la montagna tempestosa per trovare Sutica, la sorellina gemella di Gobbolino. Il cammino era lungo e difficile, ma alla fine arrivarono in vista della grande montagna purpurea. non badarono alla nuvoletta nera che si stava formando sui picchi, una nuvola che diventava sempre più grossa e avanzava verso di loro con un intenso stridio. Il cavallino di legno guardò in alto e vide la nuvola calare sempre più giù, fino ad arrivare al livello della pianura. Capirono subito che si trattava dei pipistrelli che tornavano indietro. «Inseguiteli! Inseguiteli! Vendetta! Vendetta!» stridevano i pipistrelli quando avvistarono i due amici. Gobbolino e il cavallino di legno abbassarono il capo e un attimo dopo si trovarono al centro di una massa turbinosa di unghielli affilati e denti scintillanti. Gobbolino si difese come poteva, a morsi e graffi, soffiando forte e il cavallino scalciando. Dopo un po' c'erano parecchi pipistrelli feriti, ma ne sopraggiungevano sempre di nuovi. A un certo punto il cavallino di legno si drizzò sulle zampe posteriori e implorò: «Basta, basta! Diteci perché siete così arrabbiati!» «Promesse! Promesse!» sibilarono i pipistrelli. «Solo vane promesse e bugie! Avevamo appena trovato una casa per le nostre famiglie quando siamo stati cacciati via da quel terribile gatto di strega! Ora siamo costretti a tornare nella chiesa!» «Aspettate, vi prego, aspettate!» implorò Gobbolino. «Io sto andando in aiuto di mia sorella Sutica, la gatta della strega. Forse in cambio vi permetterà di rimanere nelle grotte!» I pipistrelli si calmarono e convennero che era una buona idea. Alcuni di essi si presero per le ali, formando una specie di amaca volante. Gobbolino e il cavallino di legno vi montarono sopra e volarono fino ai piedi della montagna tempestosa. I pipistrelli decisero di passare la notte in certe tane di conigli e i due amici iniziarono la scalata. Il sentiero portava sempre più su e il sole andava sempre più giù. Le montagne avevano un aspetto ostile. Arrivarono a una caverna deserta dove decisero di fermarsi a dormire. Furono risvegliati dal chiarore della luna e videro un gatto nero dall'aria sospettosa e feroce che li fissava con due occhi verdi scintillanti. «Sorellina, sorellina Sutica, sei proprio tu!» esclamò Gobbolino. I due gatti si avvicinarono l'uno all'altro leccandosi e facendo le fusa. «Sono venuto appena il gufo mi ha dato il tuo messaggio!» disse Gobbolino. «Perché mi hai mandato a chiamare?» Gli occhi verdi di Sutica erano pieni di lacrime. «Voglio diventare un gatto di casa!» miagolò. «Sono stufa di essere una gatta di strega, cattiva dalla mattina alla sera. Non mi diverto più. Voglio essere buona come te.» «Ma la strega ti darà il permesso di andartene?» chiese Gobbolino, anche lui prossimo alle lacrime. «Oh no, mai, mai, mai! Devo andarmene quando lei dorme, di mattina presto, dopo che ha passato la notte fuori!» «Ma cosa succederà se si sveglia e scopre che sei scappata?» rabbrividì Gobbolino. «Oh, mi darebbe la caccia!» ridacchiò maliziosa Sutica figurandosi la scena. «Solo se attraverserò un corso d'acqua non mi potrà più prendere. Le streghe non possono attraversare l'acqua corrente, ma i gatti delle streghe sì. Ecco come potresti aiutarmi tu, fratello!» disse Sutica socchiudendo gli occhi. «La mia padrona è vecchia e mezza cieca. Non si accorgerebbe di certo se tu prendessi il mio posto per qualche ora, giusto per darmi il tempo di attraversare il fiume.» Gobbolino a quest'idea tremò. Ma come poteva rifiutarsi di aiutare la sorella? E poi c'erano i pipistrelli. Se lui aiutava Sutica, loro avrebbero potuto installarsi nelle grotte, lasciando in pace la chiesa. Non aveva scelta. Il mattino seguente sarebbe proprio dovuto tornare nella grotta della terribile strega.